casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama, 30 marzo 1986. Ed Couch era passato a prendere sua madre alla casa di riposo la mattina di Pasqua perché trascorresse la giornata con loro. Evelyn avrebbe voluto invitare anche la signora Threadgood, ma Ed aveva detto che la mamma ci sarebbe rimasta male e naturalmente loro non volevano che questo accadesse. Avrebbe potuto decidere all'improvviso di non tornare più alla casa di riposo. Così Evelyn aveva cucinato tutto un pasto per loro tre soltanto e dopo mangiato Ed e sua madre erano andati nello studio a guardare la televisione. Evelyn aveva pensato di tornare con loro alla casa di riposo per fare gli auguri alla signora Threadgood, ma ricevette una telefonata interurbana dal figlio proprio quando stavano uscendo dalla porta di casa. La suocera, che per tutto il pranzo si era lamentata del suo soggiorno a Rose Terrace, era già vestita e pronta per andare, così Evelyn disse a Ed di partire senza di lei. Di conseguenza erano passate 2 settimane da quando aveva visto l'ultima volta la sua amica e quando tornò a trovarla ebbe una sorpresa. Sono andata dal parrucchiere e mi sono fatta rifare i capelli per Pasqua. Che cosa ne dice? Evelyn non sapeva che cosa rispondere. Qualcuno aveva tinto di porpora i capelli della signora Threadgood. Le stanno bene? Sì, mi piace essere sempre in ordine per Pasqua. Evelyn si sedette e sorrise come se niente fosse. Chi l'ha pettinata? Ho una studentessa della scuola per estetiste di Birmingham. A volte vengono qui e ci pettinano gratis per fare pratica. La mia era una ragazzina magra come un chiodo e ha lavorato con tanto impegno che le ho dato 50 centesimi di mancia. In quale altro posto al mondo si può fare lavare, tingere e acconciare i capelli per 50 centesimi? Evelyn era curiosa. Quanti anni aveva la ragazza? Non era una ragazza, era una donna, ma era così piccola che per pettinarmi ho dovuto salire su uno scatolone. Era pochi centimetri più alta di una nana. Naturalmente io non mi lascio turbare da particolari come questo. Li adoro, i nani. Chissà che fine ha fatto quello che vendeva le sigarette. Dove? Alla radio e alla televisione. Lo vestivano come un fattorino e vendeva le Philip Morris. Non se lo ricorda? Ah, adesso sì. Adesso ho capito di chi sta parlando. Andavo pazza per lui. Speravo sempre che venisse a Whistle Stop per poterlo prendere sulle ginocchia e giocarci un po'. Evelyn aveva portato ovetti colorati, gran turco candito e cioccolatini e disse alla signora Threadgood che avrebbero festeggiato quella settimana, dato che non si erano viste il giorno di Pasqua. La signora Threadgood pensò che fosse un'ottima idea e disse a Evelyn che il gran turco candito era la sua passione. Le piaceva per prima cosa mordere le punte bianche e tenere il resto per dopo. E così fece mentre raccontava la sua giornata di Pasqua. È un vero peccato che lei non sia stata qui. Le infermiere hanno nascosto uova dappertutto. Le abbiamo messe anche in tasca e nelle stanze ed è venuta tutta la terza classe di Woodlawn. Erano tanto carini. Doveva vederli come correvano su e giù per il corridoio. Si sono divertiti come matti. Ed è tanto importante per questi poveri vecchi. Hanno tutti sete di gioventù. Quei bambini si sono lasciati dietro una grande allegria. I vecchi hanno bisogno di vedere dei giovani ogni tanto, bisbigliò in tono confidenziale, risolleva loro lo spirito. Ci sono delle vecchiette qui, che stanno sempre sedute sulle loro sedie a rotelle, tutte rattrappite, ma quando le infermiere danno loro una bambola da tenere in braccio, deve vedere come si rizzano e come la tengono bene. Quasi tutte credono di essere tornate sposine con il loro primo bambino. E indovini chi è venuto qui a Pasqua? Chi? La ragazza delle previsioni del tempo alla televisione. Non ricordo come si chiama, ma è famosa. Deve essere stato piacevole. La signora Threadgood finì il suo gran turco candito e staccò con un morso la testa a un coniglietto di cioccolato. Poi lo guardò, spiacente e carino. Sa, Evelyn, sono l'unica qua dentro ad avere festeggiato 2 volte la Pasqua. Forse è peccato, ma se lei è d'accordo, io non lo direi a nessuno. Valdosta, Georgia, 30 settembre 1924. Da ragazzo Frank Bennett aveva adorato sua madre a un punto tale da disgustare il padre, una montagna d'uomo che si divertiva a far cadere Frank dalle sedie e a farlo rotolare per le scale. Sua madre era stata l'unica presenza dolce della sua infanzia e lui l'aveva amata con tutto il cuore. Un giorno, quando tornò a casa da scuola prima del previsto con la scusa di un malessere e trovò la madre e il fratello del padre sul pavimento della cucina, tutto quell'amore si trasformò in odio nel giro di 5 secondi, il tempo che lui impiegò a rendersi conto di quello che stava accadendo e a correre fuori dalla stanza. Quei 5 secondi sarebbero stati l'ossessione della sua vita. A 34 anni Frank Bennett era un uomo vanitoso. Le sue scarpe nere erano sempre lustre, i capelli sempre ben spazzolati, i vestiti perfetti, ed era uno dei pochissimi uomini che ogni settimana dal barbiere si facesse fare anche la manicure. Insomma, era una specie di dandy. Era bello, come può essere bello un irlandese scuro di capelli e con gli occhi blu. Benché uno fosse di vetro, l'altro era anch'esso così freddo e lucente, che risultava quasi impossibile distinguerli. Ma soprattutto Frank Bennett era un uomo che otteneva quello che voleva, e lui voleva Ruth Jamison. Aveva già posseduto quasi tutte le ragazze disponibili della città, incluse quelle di colore che prendeva con la forza mentre i suoi amici le tenevano ferme. Quando le aveva avute una volta non le cercava più. Una biondina che viveva alla periferia della città aveva una bambina che gli assomigliava come una goccia d'acqua, ma da quando lui le aveva fatto un occhio nero e aveva minacciato la piccola, la biondina aveva smesso di accampare pretese. Era evidente che Frank Bennett non provava alcun interesse per le donne usate, in particolare se era stato lui ad usarle. Tuttavia, aveva fama di essere un uomo forte e generoso e aveva deciso di avere dei figli maschi ai quali lasciare in eredità il nome dei Bennett, un nome che non significava nulla per nessuno, ma che tutti collegavano alla grande proprietà terriera a sud della città. Ruth era giovane, graziosa, certamente vergine e bisognosa di una sistemazione per sé e sua madre. Che cosa si poteva sperare di meglio? Ruth ne era lusingata, per forza. Frank Bennett era lo scapolo più ambito della città e l'aveva corteggiata da vero gentiluomo, entrando nelle grazie di sua madre. Ruth si era convinta che quel bel giovane aiutante l'amasse e che di conseguenza anche lei lo avrebbe riamato. Ma chi avrebbe potuto immaginare che quelle scarpe lustre e i vestiti da damerino nascondessero tanta amarezza? In città nessuno lo sospettava, ci volle un estraneo per capirlo. La sera dell'addio al celibato, Frank fece sosta con alcuni amici in un bar prima di recarsi in una baracca in cui li aspettavano tre puttane di Atlanta. Entrò nel bar un barbone che si mise a fissare il gruppetto dall'altra parte della sala. Frank fece quello che faceva con tutti gli stranieri. Si avvicinò all'uomo che aveva evidente bisogno di un goccetto e gli diede una pacca sulla schiena. Stammi bene a sentire, vecchio. Se indovini qual è l'occhio di vetro, ti offro da bere. Gli amici risero perché era impossibile distinguere l'occhio vero da quello falso, ma il vecchio lo guardò e senza battere ciglio rispose il sinistro. Gli amici risero ancora più forte e Frank, pur essendo rimasto colpito, pensò che il vecchio avesse avuto fortuna e gettò mezzo dollaro sul banco. Il barista guardò gli uomini andarsene, poi si rivolse al vecchio. Che cosa prende? Whisky. Gli riempì un bicchiere. Ehi, come ha fatto a capire qual era l'occhio di vetro? Il vecchio beve il whisky e rispose: è stato facile, aveva uno sguardo più umano. Valdosta, Georgia, 28 aprile 1926. Iggy, che ormai aveva 19 anni, si era recata a Valdosta tutti i mesi per 2 anni e mezzo per guardare Ruth entrare e uscire dalla chiesa. Voleva solo assicurarsi che stesse bene e Ruth non si accorse mai di lei. Poi, una domenica, del tutto inaspettatamente, Iggy si spinse fino a casa di Ruth e andò a bussare alla porta. Neppure lei sapeva che lo avrebbe fatto finché non l'ebbe fatto davvero. Le aprì la madre, una donna fragile. Sì? Domandò con un sorriso. Ruth è in casa? È di sopra. Le dispiacerebbe dirle che è venuta a trovarla un'incantatrice d'api dell'Alabama? Chi? Le dica solo che è venuta una sua amica dell'Alabama. Non vuole entrare? No, non importa, aspetterò qui. La madre di Ruth chiamò la figlia dalle scale. Ruth, c'è una levatrice di api per te. Chi? C'è una persona che ti aspetta sotto il portico. Quando Ruth scese, rimase senza parole dallo stupore. Andò sul portico e Iggy, che cercava di darsi un contegno, indifferente, nonostante avesse i palmi sudati e le orecchie in fiamme, le disse: Senti, non voglio disturbarti. So che probabilmente sei felice e tutto il resto, ma voglio solo dirti che non ti odio e non ti ho mai odiata. Desidero sempre che torni da noi e non sono più una bambina, quindi non cambierò idea. Ti voglio ancora bene e te ne vorrò sempre e non mi importa di quello che pensano gli altri. Chi è? Gridò Frank dalla camera da letto. Iggy scese camminando all'indietro le scale del portico. Volevo solo farti sapere che adesso devo andare. Ruth, che non aveva aperto bocca, la guardò salire in macchina e allontanarsi. Non era passato giorno in cui Ruth non avesse pensato a lei. Frank scese le scale e uscì sul portico. Chi era? Ruth, continuando a guardare l'auto che ormai era solo un puntino nero in fondo alla strada, rispose: Una mia amica, una persona che conoscevo. E rientrò in casa come se niente fosse. Casa di riposo Ross Terrace, Birmingham, Alabama, 6 aprile 1986. La signora Threadgood cominciò a parlare nel momento stesso in cui Evelyn mise piede nella stanza. Vesta Adcock ha perduto il lume della ragione. Oggi pomeriggio alle 4 è entrata in camera nostra, ha preso la pantofolina di vetro in cui la signora Otis tiene le sue forcine e ha detto: "Il signore ha ordinato, se il tuo occhio ti offende, di cavartelo", e ha buttato pantofoline e forcine fuori dalla finestra. Poi se n'è andata. La signora Otis è rimasta sconvolta. Dopo un po' è venuta l'infermiera di colore, Jeanine, e ha riportato la pantofolina della signora Otis che era caduta in giardino. Le ha detto di non prendersela perché era da tutto il giorno che la signora Adcock continuava a lanciare cose fuori dalle finestre di tutti quanti. Le ha detto anche che la signora Adcock è matta come un cavallo e non bisogna farle caso. Sono contenta di essere ancora lucida. Con tutto quello che si vede in questa casa di riposo, io vivo alla giornata. Faccio del mio meglio, tutto qui. Evelyn le porse la scatola di ciliegie ricoperte al cioccolato. Oh, com'è gentile, cara, grazie. Rimase seduta mangiucchiando una ciliegia e rimuginando una domanda. Secondo lei, i cavalli sono davvero pazzi o la gente li crede tali? Evelyn rispose che non lo sapeva. Io so perché si dice vispo come un grillo, perché in effetti non c'è nulla di più vispo di un grillo, non crede? Come? Secondo lei esiste qualcosa di più vispo di un grillo? Oh, non li ho mai guardati abbastanza per poter dire se sono vispi o meno. Ma io sì. Albert e io passavamo ore e ore a guardarli. Cleo aveva una stupenda lente di ingrandimento sulla scrivania e noi raccoglievamo non solo grilli, ma anche cavallette, millepiedi, maggiolini e tutto quello che capitava. Li chiudevamo in un barattolo e li esaminavamo. Hanno dei visetti dolcissimi e un'espressione furba, sa? Dopo che li avevamo osservati con comodo, li riportavamo in giardino e li lasciavamo andare per i fatti loro. Una volta Cleo catturò un calabrone e lo mise in un barattolo per noi. Fu magnifico osservarlo. A Igi piacevano le api, ma il mio insetto preferito è la coccinella. Porta fortuna, sa? Ciascun insetto ha la sua personalità. I ragni sono nervosi e riottosi con la testa piccola. Mi piace anche la mantide religiosa, lei sì che sa pregare. Non potrei mai uccidere un insetto, non dopo averli visti così da vicino. Sono convinta che abbiano dei pensieri, proprio come noi. Naturalmente questo ha i suoi lati negativi. Le mie piante di casa hanno sempre le foglie smangiucchiate e anche le mie gardenie sono piuttosto mal ridotte. Norris mi dice sempre che vorrebbe dare una spruzzata di insetticida, ma io non ho il cuore di permetterglielo. Le dirò una cosa. Un insetto non potrebbe sopravvivere neppure un'ora a Ross Terrace. Un germe morirebbe all'istante. Il loro motto qui è: non basta che è sempre pulito, deve essere pulito davvero. A volte mi sembra di vivere in un sacchetto di plastica, di quelli in cui chiudono i tramezzini per venderli sul treno. Per quello che mi riguarda, sarei felicissima di tornare a casa dai miei cari insetti. Persino una formica mi sarebbe di compagnia. Sa, sono proprio contenta quando penso che tra poco me ne andrò di qui. La casa del padre ha molte stanze e io sono pronta a partire. L'unica cosa che chiedo al signore è se per caso ci sono pavimenti di linoleum nelle sue stanze, di sostituirli prima del mio arrivo. Whistle Stop, Alabama, 17 ottobre 1940. Quando Vesta Adcock era ancora ragazza, qualcuno le aveva detto di parlare più forte e lei aveva obbedito. La sua voce si sentiva anche attraverso un muro di mattoni e quando parlava all'aperto giungeva fino a diversi isolati di distanza. Secondo Cleo Threadgood era un vero peccato che Earl Adcock dovesse pagare la bolletta del telefono, in quanto Vesta avrebbe potuto facilmente aprire la porta e parlare in direzione della casa con i cui abitanti voleva comunicare. Considerato questo e il fatto che si era autonominata presidentessa del club Io sono la migliore di tutti, nessuno si stupì quando Earl fece quello che fece. Earl Adcock era un uomo tranquillo e dignitoso, che aveva sempre fatto la cosa giusta. Aveva sposato la moglie solo perché era stata lei a sceglierlo e lui non aveva voluto ferirla nell'amor proprio. E così era rimasto in silenzio mentre Vesta e la sua futura suocera organizzavano tutto, dalle nozze alla luna di miele fino alla casa in cui avrebbero vissuto. Dopo la nascita del loro figlio unico, Earl Junior, un bambino paffuto con lunghi riccioli castani che gridava chiamando la madre ogni volta che il padre gli si avvicinava, Earl si era reso conto di aver commesso un grave errore, ma aveva continuato a comportarsi da gentiluomo ed era rimasto sposato, allevando quel figlio che viveva nella sua stessa casa. Aveva nelle vene il suo stesso sangue, ma era per lui un estraneo. Earl era capo di più di 200 uomini alla LNN, dove godeva di grande rispetto ed era considerato un uomo di valore. Aveva servito coraggiosamente nell'esercito durante la Prima Guerra Mondiale, uccidendo due tedeschi, ma a casa sua veniva trattato come un altro figlio di Vesta e neppure quello prediletto. Veniva sempre secondo dopo Earl Junior. Pulisciti le scarpe prima di entrare, non sederti su quella poltrona. Come osi fumare in casa mia? Esci subito sul portico. Non entrare qui dentro con quel pesce puzzolente. Portalo in giardino e puliscilo là. O ti sbarazzi di quei cani, altrimenti prendo il bambino e me ne vado. Mio Dio, è possibile che tu non abbia altro per la testa? Voi altri uomini siete tutti animali. Lei sceglieva i vestiti e gli amici e gli saltava addosso come una gatta furibonda quelle rare volte che lui cercava di sgridare il piccolo Earl. Alla fine, lui rinunciò. E così, attraverso gli anni, Earl aveva sempre indossato il completo blu, aveva mangiato il pollo con le posate, era andato in chiesa, era stato marito e padre e non aveva mai pronunciato una sola parola controversa. Ma adesso Earl Junior era cresciuto e la Ellen Ann, dopo avergli regalato un orologio d'oro, lo aveva congedato, con una discreta pensione che lui aveva immediatamente girato a Vesta. E così, in silenzio come era vissuto, Earl se ne andò dalla città, lasciandosi dietro solo un biglietto. Ecco fatto, non ci sono più, e se non credi che me ne sia andato davvero, conta i giorni che passano. Quando sentirai il telefono che non suona, sarò io che non chiamo. Addio. E buona fortuna, sinceramente tuo, Earl Adcock. PS, non sono sordo. Vesta schiaffeggiò uno stupefatto Earl Junior, quindi rimase a letto per una settimana con un impacco freddo sulla testa, mentre tutta la città applaudiva segretamente Earl. Se gli auguri fossero stati banconote da $10, Earl Adcock sarebbe diventato un uomo ricco in poco tempo. Valdosta, Georgia, 4 agosto 1928. Erano passati 2 anni da quando Iggy aveva visto Ruth, ma ogni tanto continuava ad andare a Valdosta il mercoledì, poiché quello era il giorno in cui Frank Bennett veniva in città per andare dal barbiere. Di solito lei stava nei paraggi della drogheria, perché da lì si poteva vedere Frank seduto sulla poltrona del barbiere. Le sarebbe piaciuto sentire quello che diceva, ma le bastava vederlo. Era il suo unico collegamento con Ruth, e finché lo vedeva voleva dire che Ruth era ancora lì. Quel mercoledì, la signora Puckett, la vecchia moglie del droghiere, con i suoi occhiali cerchiati di nero, era come sempre indaffarata tra gli scaffali del negozio, come se la sua stessa vita dipendesse dall'ordine che regnava in mezzo alle specialità in vendita. E.G. era seduta al banco con lo sguardo fisso sulla bottega del barbiere. «Certo che quel Frank Bennett parla parecchio, non trova? Deve essere un tipo socievole». La signora Puckett era in piedi sul primo gradino di una scala e con le spalle rivolte a Iggy stava allineando dei barattoli di salsa all'uovo. Sembrerebbe proprio di sì. Iggy notò il tono strano della sua voce. Che cosa intende dire? Oh, niente, ho detto che Bennett sembrerebbe proprio un tipo amichevole, tutto qui. La donna scese dalla scala. Secondo lei non lo è? Quello che penso io conta poco. Secondo lei non è un compagnone? Non ho detto che secondo me non è un compagnone, immagino che lo sia. Adesso la signora Puckett stava erigendo una pila con le scatole di pillole per il fegato esposte sul banco. E.G. scese dallo sgabello e le si avvicinò. Lei non mi sembra convinta. Sa qualcosa su di lui che io non so? Ci sono state volte in cui non è stato socievole? No, è sempre molto educato, rispose l'altra. È solo che a me non piacciono gli uomini che picchiano la moglie. E.G. si sentì raggelare. Come ha detto? Ha sentito benissimo. Lei come lo sa? Adesso la signora Puckett stava costruendo un'ardita piramide con le confezioni di dentifricio. Mio marito ha dovuto più volte portare nei medicamenti alla moglie. Le ha fatto un occhio nero, l'ha buttata giù dalle scale e una volta le ha spezzato un braccio. Lei insegna catechismo e non ho mai conosciuto una persona più dolce. Si spostò per riordinare le boccette dei sali epatici. È così che l'alcol può ridurre gli uomini, li spinge a fare cose pazze che altrimenti non si sognerebbero neppure. Il signor Puckett e io stiamo lontani dalla bottiglia. Ma Iggy era già fuori della porta e non sentì il resto della frase. Il barbiere stava spazzolando la nuca di Frank con una polvere di borotalco dall'odore dolciastro quando Iggy fece irruzione nel negozio. Era fuori di sé, puntò un dito in faccia a Frank. Ascoltami bene, brutto ipocrita, occhio di vetro, figlio di puttana bastardo. Se piccherai ancora Ruth, io ti ammazzerò, giuro che ti strapperò il cuore con queste stesse mani. Mi hai sentito, brutto maiale? E con un gesto repentino del braccio rovesciò a terra tutto quello che c'era sulla mensola di marmo. Dozzine di bottiglie di shampoo, frizioni, oli per capelli, lozioni da barba e polveri si infransero al suolo. Prima che i presenti si rendessero conto dell'accaduto, Iggy era già risalita in macchina e stava fuggendo a gran velocità. Il barbiere rimase inchiodato dov'era con la bocca aperta. Era successo tutto così in fretta. Guardò Frank nello specchio e disse: quella tipa doveva essere matta. Appena arrivò al club della pesca a Wagon Wheel, Iggy raccontò a Eva quello che era successo e, ancora furiosa, giurò che sarebbe tornata laggiù per sopprimere Bennett. Eva l'ascoltò attentamente. Se tornerai laggiù, sarà lui a uccidere te. Non si ha il diritto di interferire con il matrimonio degli altri, Iggy. Sono affari loro. Esistono cose tra un uomo e una donna che tu non puoi capire. La povera Iggy soffriva moltissimo e chiese a Eva: perché resta con lui? Perché si lascia maltrattare così? Sono faccende che non ci riguardano adesso, mia cara. Cerca di dimenticartene. È una donna adulta e fa quello che vuole, anche se a te non piace sentirtelo dire. Sei ancora una bambina, tesoro, e se quell'uomo è malvagio, come dici tu, potrebbe finire male per te. Non me ne importa di quello che dici, Eva. Un giorno lo ammazzerò, quel figlio di puttana. Aspetta e vedrai. Eva le versò un altro drink. No, non lo farai. Non ucciderai nessuno e non tornerai mai più in quella città, me lo prometti? Iggy promise, ma tutte e due sapevano che aveva mentito. Casa di riposo, Rose Terrace, Birmingham, Alabama, 27 aprile 1986. La signora Threadgood quel giorno era particolarmente felice davanti al suo piatto di carta con pollo fritto e insalata di cavolo. Evelyn era andata in fondo al corridoio a prenderle un succo d'uva. Grazie tante, cara. Lei mi sta viziando con tutte queste prelibatezze. Ho detto alla signora Otis che neppure se fosse mia figlia potrebbe essere più gentile con me e gliene sono tanto grata. Sai, io non ho mai avuto una figlia. A sua suocera piacciono le leccornie? No, per niente, rispose Evelyn. Ho portato anche a lei del pollo, ma non l'ha voluto. È de sua madre, non sono golosi. Mangiano solo per non morire di fame, se lo immagina. La signora Threadgood disse che non riusciva a immaginare nulla di più triste. Evelyn la pungolò. Eravamo rimasti a quando Ruth lasciò Whistlestop per tornare a Valdosta e sposarsi. Esattamente, e Iggy per poco non ne morì. Fu un tale colpo per lei. Lo so, me ne ha già parlato, ma io voglio sapere di quando Ruth tornò a Whistlestop. Evelyn si mise comoda sulla sua seggiola, mangiando il pollo e ascoltando. Ricordo ancora il giorno in cui arrivò la lettera. Doveva essere il 28 o il 29, o forse il 30. Comunque ero in cucina con Sipsi quando la mamma entrò con la busta in mano. Aprì la porta sul retro e chiamò Big George, che era in giardino con Jasper e Artis. George, gli disse, corri subito a chiamare Iggy, dille che c'è una lettera di Ruth. George si precipitò a chiamarla e un'ora più tardi Iggy entrò in cucina. La mamma, che stava sgusciando i piselli, le indicò la lettera sul tavolo senza dirle una parola. Iggy l'aprì, ma la cosa strana era che non si trattava affatto di una lettera. Era una pagina strappata dalla Bibbia nella versione di Re Giacomo, Ruth 1:16-20. E Ruth rispose: non forzarmi a lasciarti e ad allontanarmi da te, perché dove tu andrai andrò anch'io, e dove tu dimorerai anch'io dimorerò. Il tuo popolo sarà il mio, e il tuo Dio sarà il mio. Iggy rimase impietrita a leggere e rileggere la citazione, poi porse il foglio alla mamma e le domandò che cosa secondo lei volesse dire. La mamma lo lesse, lo posò sul tavolo e continuò a sgusciare i piselli. Secondo me significa esattamente quello che dice. Domani tu, i tuoi fratelli e Big George andrete a prenderla. Sai bene che fino a quando non l'avrei fatto non riuscirai a sopravvivere. Ed era vero, non sarebbe riuscita a sopravvivere. E così il giorno dopo si recarono tutti in Georgia a prenderla. Ammirai molto Ruth per aver trovato il coraggio di andarsene in quel modo. Ci voleva fegato a quei tempi, non come al giorno d'oggi. Allora una donna sposata rimaneva sposata, ma lei era molto più forte di quanto sembrasse. Tutti la trattavano sempre come una bambola di porcellana, ma a modo suo era più forte anche di Iggy. Ruth ottenne mai il divorzio? Ah, questo non lo so, non gliel'ho mai chiesto. Erano affari suoi. Non ho mai conosciuto suo marito, ma dicono che fosse bello, a parte quell'occhio di vetro. Ruth mi raccontò che era di buona famiglia, ma covava un odio invincibile per le donne. Disse che la loro prima notte di nozze si era ubriacato e l'aveva violentata, mentre lei per tutto il tempo non faceva altro che supplicarlo di smettere. Che cosa squallida, può dirlo forte. Sanguinò per 3 giorni e dopo non fu più capace di rilassarsi e godersela. E naturalmente questo contribuiva solo a farlo arrabbiare ancora di più. Un giorno le diede un calcio e la mandò a finire giù per le scale. Santo cielo! Poi cominciò a molestare le povere ragazze di colore che lavoravano per lui. Ruth mi disse che una aveva solo 12 anni, ma quando scoprì che razza di uomo aveva sposato, ormai era troppo tardi. La madre di Ruth era malata e lei non poteva andarsene. Mi spiegò che quando la sera lui tornava a casa ubriaco e la violentava, lei lo lasciava fare e pregava Dio e si sforzava di pensare a qualcosa per non diventare pazza. Dicono che non si può conoscere un uomo se non ci si vive insieme, osservò Evelyn. Ed è sacrosanto. Sipsi diceva sempre che non si può sapere che razza di pesce si è pescato finché non lo si è tolto dall'acqua. Quindi è un bene che Stamp non abbia mai conosciuto suo padre. Ruth se ne andò prima che lui nascesse. A dire il vero, non sapeva neppure di essere incinta quando partì da Valdosta. Abitava con Iggy da 2 mesi quando si accorse di essere ingrassata. Andò dal dottore e scoprì di aspettare un bambino. Il piccolo nacque a casa Threadgood ed era tanto carino, biondo come un angioletto. Pesava 3,5 kg e aveva gli occhi castani. La prima volta che lo vide, la mamma disse: Guarda, Iggy, hai i capelli come i tuoi. Era vero, era biondo come il grano. Fu allora che papà Threadgood fece sedere Iggy a un tavolo e le disse che dal momento che da allora sarebbe stata responsabile di Ruth e del bambino, avrebbe fatto meglio decidere che cosa voleva fare della sua vita, e le regalò $500 per mettersi in affari. Fu con quelli che Iggy comprò il caffè. Evelyn domandò se Frank Bennett avesse mai saputo di avere un figlio. Non ne ho la più pallida idea. Non vide mai più la moglie dopo che lei abbia lasciato la Georgia. Oh, questo non saprei dirglielo per certo, ma una cosa è sicura: venne a Whistlestop almeno una volta, e comunque fu una volta di troppo. Perché dice così? Perché venne ucciso. Ucciso? Proprio così, mia cara. Restò secco come un manico di scopa. Valdosta, Georgia, 18 settembre 1928. Quando Ruth era tornata a casa quell'estate per sposarsi, Frank Bennett e sua madre erano andati a prenderla alla stazione. Ruth aveva dimenticato quanto lui fosse attraente e quanto sua madre si fosse rallegrata nell'apprendere che la figlia si era trovata un marito tanto ambito. Quasi subito erano cominciate le feste in loro onore e lei aveva cercato di non pensare più a Whistlestop. Ma certe volte, da sola di notte o in mezzo alla gente, e sempre nei momenti più impensati, le veniva in mente Iggy e il desiderio di vederla era talmente forte da toglierle il fiato. Quando questo accadeva, Ruth si rivolgeva a Dio chiedendogli di cancellare quel pensiero dalla sua mente. Sapeva che stava per fare quel che era giusto e che prima o poi avrebbe dimenticato Iggy. Di sicuro lui l'avrebbe aiutata, di sicuro i sentimenti che provava per Iggy si sarebbero attenuati con il tempo. Con il suo aiuto avrebbe chiuso per sempre quel capitolo della sua vita. Si era sposata, decisa a diventare a qualunque costo una buona moglie e ad amare incondizionatamente il marito. Per questo era rimasta tanto scioccata quando lui l'aveva presa con tutta quella violenza, come se la stesse punendo per qualcosa. Quando lui ebbe finito, Ruth rimase sdraiata nel proprio sangue e Frank si alzò per andare a dormire in un'altra stanza. Andava nel suo letto solo quando voleva avere rapporti e anche allora 9 volte su 10 era ubriaco, oppure perché si sentiva troppo pigro per andare in città. Ruth era convinta che qualcosa in lei avesse provocato l'odio del marito. In qualche modo, per quanto lei cercasse di sopprimerlo, Frank aveva percepito l'amore che provava per Iggy. Doveva essere traboccato dalla sua voce, dalle sue carezze. Non sapeva come, ma lui di sicuro se n'era accorto e per questo la disprezzava. Così Ruth viveva nella colpa e subiva i maltrattamenti e gli insulti perché pensava di meritarli. Il dottore uscì dalla stanza di sua madre. Signora Bennett, ha ripreso a parlare un pochino. Se vuole può entrare per qualche momento. Ruth entrò e si sedette. La madre, che da una settimana non apriva bocca, socchiuse gli occhi e la vide. Vattene via da lui, bisbigliò. Promettimelo, Ruth. Quell'uomo è un demonio. Ho visto Dio e adesso lo so per certo. Sento delle voci, Ruth. Vattene via, promettimelo. Era la prima volta che sua madre le parlava di Frank. Ruth annuì e le tenne la mano. Quel pomeriggio il dottore chiuse per sempre gli occhi di sua madre. Ruth pianse per lei e un'ora più tardi andò al piano di sopra, si lavò il viso e preparò la busta da spedire a Iggy. Quando l'ebbe sigillata, si affacciò alla finestra e guardò il cielo cristallino. Trasse una profonda boccata di aria fresca e sentì il proprio cuore prendere il volo, come un aquilone lanciato nel vento da un bambino. Valdosta, Georgia, 21 settembre 1928. Davanti alla casa si fermarono una macchina e un camion. Nel camion c'erano Big George e Iggy. Sulla Ford T c'erano Cleo, Julian e due loro amici, Wilbur Wims e Billy Lamway. Ruth, che aspettava vestita di tutto punto sin dalle prime ore del mattino, nella speranza che venissero proprio quel giorno, uscì dalla porta. I ragazzi e Big George smontarono dai veicoli e l'aspettarono in portico, mentre Iggy le andava incontro. Ruth la guardò e disse: Sono pronta. Frank, che stava sonnecchiando, era stato svegliato dal rumore dei motori. Scese le scale e riconobbe immediatamente Iggy. Che cosa ci fai tu qui? Poi vide i cinque uomini in giardino. Iggy, che non aveva staccato gli occhi da Ruth, le domandò dove fossero i suoi bagagli. Di sopra. Di sopra? Gridò Iggy a Cleo. Che cosa diavolo sta succedendo? Chiese Frank quando i quattro uomini gli passarono accanto. Julian, l'ultimo, gli rispose: Ho come l'impressione che sua moglie la stia mollando, signore. Ruth era salita sul camion con Iggy e Frank stava per raggiungerle quando notò Big George che, appoggiato con noncuranza al cassone, aveva estratto di tasca un coltello per sbucciare la mela che teneva in mano. Non le conviene far arrabbiare quel negro, signore, gridò Julian dall'interno della casa. È un po' matto. Prima che Frank potesse rendersi conto di quello che stava accadendo, il baule di Ruth era stato caricato sul camion e la comitiva era ripartita. Un po' in ritardo e a beneficio di Jake Box, il suo aiutante che aveva assistito alla scena, Frank Bennett gridò alla polvere sollevata dalle auto: E non ritornare, maledetta cagna frigida! Pezzo di ghiaccio, sgualdrina! Il giorno dopo andò in città e raccontò a tutti quanti che Ruth era impazzita dal dolore dopo la morte di sua madre, così lui si era visto costretto a ricoverarla in un manicomio poco fuori Atlanta. Whistle Stop, Alabama, 21 settembre 1928. Mamma e papà Threadgood erano in attesa sotto il portico. Mamma e Sipsy avevano passato la mattina a sistemare una stanza per Ruth, e ora Sipsy era in cucina con Ninny e insieme stavano preparando dei biscotti per la cena. Mi raccomando, Alice, non saltarle addosso e non spaventarla. Resta calma e stiamo a vedere. Non deve sentirsi costretta a rimanere. Non dobbiamo insistere in alcun modo. La mamma stava tormentando il fazzoletto e intanto si toccava i capelli, segno che era nervosa. Va bene, disse al marito. Le dirò soltanto che siamo felici di vederla. Questo posso dirglielo, vero? Posso farle sapere che è la benvenuta. Glielo dirai anche tu, non è così? Certamente, ma non sperare troppo, altrimenti potresti andare incontro a una delusione. Dopo un minuto di silenzio chiese: Alice, credi che si fermerà? Oh, mi auguro proprio di sì. In quel momento spuntò da dietro l'angolo il camion con a bordo Ruth e Iggy. Eccole! Esultò papà. Ninni, Sipsy, sono arrivate! La mamma si precipitò giù dai gradini, seguita a ruota da papà. Quando videro Ruth scendere dal camion, pallida e smagrita, dimenticarono le loro buone intenzioni e presero a baciarla e abbracciarla, parlandole tutti e due contemporaneamente. Oh, sono tanto felice che tu sia tornata, tesoro. Non ti lasceremo più scappare stavolta. La tua stanza è già pronta, i Sipsy e Nini hanno cucinato per te tutta la mattina. Mentre l'accompagnavano su per le scale, la mamma si voltò e guardò Iggy. Sarà meglio che ti comporti bene stavolta, signorina, mi hai sentita? Iggy le rispose con uno sguardo confuso e mentre le seguiva al primo piano borbottò tra sé: Che cosa ho fatto di male? Dopo pranzo, Ruth andò in salotto con mamma e papà e chiuse la porta. Seduta davanti a loro con le mani in grembo, cominciò a dire: Non ho denaro, non ho nulla tranne i miei vestiti. Ma posso lavorare. Voglio dirvi subito che non me ne andrò mai più. Non avrei dovuto lasciarvi 4 anni fa, adesso lo so. Ma cercherò di ricompensarla per il male che le ho procurato e di non farla mai più soffrire, avete la mia parola. Papà, che provava imbarazzo davanti a qualunque tipo di sentimento, si agitò sulla sedia. D'accordo, ma spero che tu ti renda conto di quello che ti aspetta. Iggy non è una persona facile. La mamma lo zittì. Lo sa, non è così cara? È solo un po' selvatica. Iggy dice che è colpa mia perché ho mangiato selvaggina mentre ero incinta di lei. Quell'anno. Durante la stagione della caccia cucinammo una quantità di quaglie e fagiani, lo ricordo ancora. Hai mangiato selvaggina ogni giorno della tua vita. È vero anche questo. Comunque ormai è inutile parlarne. Vogliamo solo dirti, Ruth, che ti consideriamo una di famiglia e siamo felici che la nostra bambina si sia scelta una compagna dolce come te. Ruth si alzò, li baciò entrambi e uscì in giardino, dove Iggy la stava aspettando, sdraiata nell'erba. Ascoltando i grilli e domandandosi come mai si sentisse ubriaca se non aveva bevuto neppure un goccio. Dopo che Ruth se ne fu andata, papà disse: Te l'avevo detto che non era il caso di preoccuparsi. Io non ero preoccupata, tu lo eri, ribatté la mamma e prese in mano il suo ricamo. Il giorno dopo, Ruth riprese il cognome Jamison e Iggy sparse la voce che suo povero marito era stato schiacciato da un camion. All'inizio Ruth rimase scossa dal fatto che Iggy avesse inventato una simile bugia, ma poi, dopo la nascita del bambino, gliene fu grata. Caffè di Whistle Stop, Whistle Stop, Alabama, 22 novembre 1930. Era una giornata fredda e limpida e alla radio stava per cominciare uno dei loro programmi preferiti. Grady Kilgore stava finendo la sua seconda tazza di caffè e Sipsy, che spazzava i mozziconi buttati a terra dai clienti della prima colazione, fu la prima a vederli fuori della vetrata. Senza rumore, due autocarri neri si erano fermati di fronte al caffè e una dozzina di membri del Ku Klux Klan, vestiti come durante uno dei loro riti, erano scesi e si erano messi in fila davanti al caffè. «Oh mio Dio, eccoli!» mormorò Sipsy. «Lo sapevo che sarebbero venuti!» Ruth, che stava lavorando dietro il banco, le domandò che cosa fosse successo, poi andò lei stessa a dare un'occhiata. Appena li vide, chiamò Onsel nel retro. «Chiudi la porta a chiave, portami il bambino!» Gli uomini erano in piedi sul marciapiede davanti alla vetrina del caffè, come statue bianche. Uno teneva un cartello con una scritta in rosso. «Guardati dall'impero invisibile, la torcia e la corda hanno fame!» Grady Kilgore si alzò, sbirciò fuori e cominciò a pulirsi i denti con uno stuzzicadenti, scrutando gli uomini con il cappuccio appuntito. «E ora», disse l'annunciatore alla radio, «presentiamo agli amici ascoltatori Billy il semplice barbiere di Harville, la storia di un uomo che potrebbe essere il vostro vicino di casa». Iggy, che era in bagno, uscì e vide tutti quanti guardare fuori dalla vetrata. «Che cosa succede?» «Vieni qui, Iggy», disse Ruth. Iggy guardò fuori. «Merda!» Onsel mise il bambino tra le braccia di Ruth, ma le rimase al fianco. «Che storia mai questa?» domandò Iggy a Grady. Grady, che si stava ancora stuzzicando i denti, affermò con sicurezza: «Quelli non sono i nostri ragazzi!» «E chi sono allora?» Grady gettò un nichilino sul tavolo. «Resta qui, vado a scoprirlo!» Sipsy era in un angolo con la sua scopa. «Non mi lascerò spaventare dai fantasmi degli uomini bianchi!» borbottava tra sé. Grady uscì e parlò con un paio degli uomini. Dopo qualche minuto, uno di essi annuì e disse qualcosa agli altri, e a uno cominciarono ad andarsene in silenzio, come erano venuti. Ruth non poteva esserne certa, ma le era sembrato che uno di loro avesse fissato a lungo lei e il bambino. Poi ricordò qualcosa che Iggy le aveva detto una volta e gli guardò le scarpe prima che montasse sul camion. Quando vide le calzature nere lucenti, provò un improvviso terrore. Grady tornò nel caffè come se niente fosse. Non volevano nulla, speravano solo di spaventarvi, tutto qui. Uno di loro è stato da queste parti qualche giorno fa e ha visto che vendete da mangiare ai negri dalla porta della cucina. E così ha pensato che fosse il caso di darvi una scrollatina, nient'altro. Iggy gli chiese che cosa avesse detto loro per farli andare via. Grady prese il cappello dalla rastrelliera. «Solo che questi sono i nostri negri e non vogliamo che vengano dalla Georgia a dirci quello che possiamo e non possiamo fare». Guardò Iggy negli occhi. «E ti assicuro che non torneranno», concluse. Quindi si mise il cappello e uscì. Benché Grady fosse membro del club dei cetrioli sott'aceto e quindi un noto bugiardo, quel giorno aveva detto la verità. Quello che Iggy e Ruth non sapevano era che, per quanto malvagi, quegli uomini venuti dalla Georgia non erano tanto stupidi da permettersi di sfidare il Ku Klux Klan dell'Alabama, ed erano invece abbastanza furbi per capire che era meglio stare alla larga. Fu per questo che, quando tornò, Frank Bennett era solo e venne di notte. Gazzetta di Valdosta, 15 dicembre 1930, denunciata la scomparsa di un cittadino. Quest'oggi Gerald Bennett ha denunciato la scomparsa del fratello Frank, 38 anni, da sempre residente a Valdosta, dopo che Jake Box, un dipendente del fratello, lo aveva informato del mancato ritorno di Frank dopo una partita di caccia. Frank è stato visto l'ultima volta la mattina del 13 dicembre, quando uscendo di casa ha detto al signor Box che sarebbe rientrato entro sera. Chiunque abbia informazioni è pregato di avvisare le autorità locali. Whistle Stop, Alabama, 18 dicembre 1930. Era un altro pomeriggio di freddo intenso in Alabama e i maiali stavano bollendo nel grande pentolone di ferro sul retro del caffè. Il pentolone traboccava pieno di carne che ben presto sarebbe stata servita con la salsa speciale da barbecue di Big George. Big George era vicino al pentolone insieme ad Artis, quando alzando gli occhi vide tre uomini con la pistola al fianco camminare verso di lui. Grady Kilgore, sceriffo locale e ispettore delle ferrovie, a tempo perso, di solito lo chiamava George, ma quel giorno voleva darsi delle arie davanti agli altri due. «Ehi, amico, vieni un po' a dare un'occhiata!» gli tese una foto. «Hai mai visto quest'uomo qui intorno?» Artis, incaricato di mescolare con un bastone, cominciò a sudare. Big George guardò la fotografia dell'uomo bianco con la bombetta e scosse la testa. «No, non l'ho mai visto!» rispose. e la restituì a Grady. Uno degli altri due andò a guardare nel pentolone dove i pezzi bianchi e rosa di maiale andavano su e giù come i cavallini di una giostra. Grady ripose la fotografia nella tasca della giacca e, adempiuto il suo dovere, disse: «Quando sarà pronto questo barbecue, Big George?» Big George guardò nella pentola e ne studiò per un lungo istante il contenuto. «Venite domani a pranzo, sì, per allora sarà pronto. Tienicene un po' da parte, mi raccomando.» Big George sorrise. «Sicuro, lo farò.» Mentre i tre uomini si dirigevano verso il caffè, Grady disse agli altri due: «Quel negro prepara il miglior barbecue di tutto lo stato. Dovete assolutamente assaggiarlo se volete sapere che cosa sia un buon barbecue. Secondo me, in Georgia non avete idea di che cosa sia un buon barbecue.» Smokey e Iggy erano seduti al bar a fumare e a bere caffè. Grady entrò, appese il cappello alla rastrelliera e raggiunse il loro tavolo. «Iggy, Smokey, vi presento gli agenti Curtis Smoot e Wendell Riggins. Sono venuti dalla Georgia per cercare un tale.» Tutti quanti si scambiarono un saluto e i poliziotti si sedettero. «Che cosa vi offro, ragazzi, del caffè?» propose Iggy. Accettarono tutti volentieri. «Sipsi!» gridò Iggy girandosi verso la cucina. Sipsi mise la testa fuori dalla porta. «Tre caffè, per favore.» Poi Iggy tornò a rivolgersi ai poliziotti. «Che cosa ne dite di una fetta di torta?» «Oh, adesso è meglio di no», rispose Grady. «Siamo in servizio.» Il più giovane e ben piantato dei due agenti sembrava deluso. «Questi due ragazzi sono venuti a cercare un tale e io ho accettato di collaborare.» Aveva consentito solo a patto che gli permettessero di essere lui a mostrare la fotografia. Si schiarì la gola e la prelevò dalla tasca, cercando di assumere un atteggiamento solenne e noncurante al tempo stesso. «Qualcuno di voi ha visto quest'uomo in città ultimamente?» Iggy guardò la foto e rispose di no, che non l'aveva visto. Quindi la passò a Smokey. «Che cosa ha fatto?» Sipsi portò i caffè e Curtis Smoot, il più magro degli agenti, con il collo che assomigliava a un braccio grinzoso che usciva dalla camicia bianca, rispose con voce stridula: «Nulla quanto sappiamo! Stiamo cercando di scoprire che cosa è stato fatto a lui, piuttosto.» Smokey restituì la foto. «No, non l'ho mai visto neppure io. Perché lo cercate qui?» «Ha detto a un tale che lavorava per lui in Georgia che sarebbe venuto qui un paio di giorni fa e poi non è più tornato a casa.» Smokey chiese in quale luogo della Georgia. «Valdosta. Chissà perché veniva dalle nostre parti», chiese Smokey. Iggy si voltò di nuovo verso la cucina. «Sipsi, portaci due fette di quella torta di cioccolato.» Poi guardò l'agente Riggins. «Deve assolutamente provarla e dirmi che cosa ne pensa. L'abbiamo tolta dal forno pochi minuti fa. Gliela offro con piacere.» «Oh, non posso davvero», protestò debolmente l'agente Riggins. «Soltanto un boccone, mi serve l'opinione di un esperto.» «E va bene, soltanto un boccone.» Il più magro dei due squadrò Iggy. «Secondo me si è ubriacato, è finito da qualche parte e fra un paio di giorni salterà fuori. Proprio non riesco a capire per quale motivo volesse venire qui, non c'è nulla qui.» «Abbiamo pensato che forse aveva una ragazza da queste parti», spiegò Wendell tra un boccone e l'altro. Grady esplose in una risata. «In tutta Whistlestop non c'è una sola donna per cui valga la pena di fare tanta strada.» Poi ci ripensò, tranne forse Eva Bates. Scoppiarono a ridere tutti e tre, e Smokey, che aveva anche lui avuto il piacere di conoscere Eva nel senso biblico del termine, esclamò: «Dice bene, sceriffo.» Grady attaccò l'altra fetta di torta, tutto soddisfatto della propria battuta. Ma la gente per le ossa non aveva riso e si sporse verso di lui sul tavolo. «E chi sarebbe questa Eva Bates?» «Una rossa che tiene un bar sul fiume», rispose Grady, «una nostra amica.» «E pensate che possa essere venuto per questa Eva?» Grady, mangiando la sua torta, guardò la foto sul tavolo e scartò l'idea. «Mi sembra molto difficile.» La gente non era convinto. «Perché?» «Tanto per cominciare, lui non era suo tipo.» Scoppiarono di nuovo a ridere tutti e tre. Anche Wendell Riggins ridacchiò, ma senza sapere perché. «Perché non era suo tipo?» domandò l'agente Smoot. Grady mise giù la forchetta. «Non vorrei offenderti, amico, e non lo conosco neppure il tizio della foto, ma mi sembra un po' effeminato, non pare anche a te, Smokey?» Smokey fu d'accordo. «La verità è che Eva gli avrebbe dato un'occhiata e poi l'avrebbe buttato nel fiume.» Risero ancora. «Se lo dice lei», commentò Smoot, e squadrò di nuovo Iggy. «Non c'è niente di strano», continuò Grady, strizzando l'occhio a Iggy e Smokey. «A quanto si dice in giro, tutti quanti in Georgia hanno questa tendenza.» «L'hanno detto anche a me», confermò Smokey. Grady si appoggiò allo schienale della seggiola e si accarezzò lo stomaco. «È meglio che proseguiamo, abbiamo ancora qualche visita da fare prima che scenda il buio.» Mise la fotografia nel taschino. Mentre si alzavano, l'agente Riggins disse: «Grazie per la torta, signora». «Oh, Iggy! Signora Iggy, era deliziosa, grazie davvero. Si figuri!» Grady prese il cappello. «Li rivedrà, Iggy. Domani verremo tutti insieme per mangiare il barbecue. Vi aspetto, allora!» Grady occhieggiò verso la cucina. «A proposito, dov'è Ruth?» «È a casa, la mamma non si è sentita bene.» «Oh, me l'hanno detto», disse Grady. «Mi dispiace per lei. Ci vediamo domani!» E uscirono. Benché fossero solo le 4:30 del pomeriggio, il cielo era già grigio, con lampi argentati all'orizzonte, e la pioggerella, che aveva cominciato a scendere, era sottile e fredda come il ghiaccio. Le vetrine del salone di bellezza di Opal erano già decorate con addobbi natalizi, che ora si riflettevano sul marciapiede bagnato. All'interno, l'aiutante di Opal stava spazzando e la radio diffondeva una musica natalizia. Opal stava finendo la sua ultima cliente del giorno, Vesta Adcock, che quella sera doveva andare al banchetto della L&N a Birmingham. La campanella sulla porta tintinnò mentre Grady e gli altri due entravano. Grady assunse il suo tono ufficiale. «Opal, posso parlarle per un momento?» Vesta Adcock sbarrò gli occhi e si strinse addosso la mantellina a fiori. «Ma che diamine!» strillò. Anche Opal sbarrò gli occhi e si precipitò incontro a Grady con un pettine verde in mano. «Non puoi entrare, sceriffo, questo è un salone di bellezza e l'ingresso agli uomini è severamente vietato. Che cosa le è venuto in mente? Ha perduto la ragione? Fuori, fuori, ma che idea!» Il gigantesco Grady e gli altri due cozzarono l'uno nell'altro nel guadagnare l'uscita e si fermarono appena fuori, sul marciapiede, con Opal che li fulminava con gli occhi attraverso il vetro appannato. Grady tornò a riporre in tasca la fotografia di Frank Bennett. «Qui non è venuto di sicuro, questo è certo», commentò. I tre si alzarono il bavero e si incamminarono in direzione della ferrovia. Caffè di Whistle Stop, Whistle Stop, Alabama. 21 dicembre 1930. Erano passati 2 giorni dall'arrivo dalla Georgia dei 2 uomini che facevano a tutti domande su Frank Bennett. Il terzo giorno, quello più magro, Curtis Smoot, entrò da solo al caffè e ordinò un altro barbecue e una spremuta d'arancia. «Tra lei, Grady e suo socio, vi siete mangiati tutto il mio barbecue. Solo oggi ne avete consumate 10 porzioni», disse Iggy dopo averlo servito. Lui la squadrò. «Perché non siede un momento?» la invitò con la sua voce stridula. Iggy si guardò attorno, constatò che il locale non era affollato e prese posto di fronte al poliziotto. Lui mangiò un boccone di pane e la fissò negli occhi. «Come va?» chiese Iggy. «Avete trovato quel tipo?» Questa volta lui si guardò attorno per il locale, poi si sporse sul tavolo. Il suo viso era affilato come un rasoio. «A me non la dà a bere, signorina. So bene chi è. Non creda di potermi prendere per il naso. Deve alzarsi presto al mattino se vuole farla a Curtis Smoot. La prima volta che ho messo piede qui dentro mi sono subito ricordato di averla già vista, ma non sapevo dove. Così ho fatto qualche telefonata e ieri sera mi sono ricordato di tutto.» Si appoggiò allo schienale e continuò a mangiare senza staccare gli occhi di dosso. Iggy aspettò senza battere ciglio che lui continuasse. «Adesso mi sono procurato una dichiarazione scritta da quel Jake che lavora a casa Bennett. Secondo lui, una persona che risponde esattamente alla sua descrizione e un'altra che assomiglia molto da vicino a quel gigante nero che sta sul retro sono venute con altre Valdosta per elevare la moglie di Bennett e quel negro ha minacciato Bennett con un coltello.» Si mise a giocherellare con uno dei pezzi di carne che aveva nel piatto. «Senza contare che ero nel retro del barbiere quel giorno e l'abbiamo sentita tutti minacciare Bennett di ucciderlo. Se me lo ricordo io, può stare sicura che se lo ricorderanno anche gli altri.» Beve un sorso di spremuta e si pulì la bocca con il tovagliolo di carta. «Non voglio dire che Frank Bennett fosse mio amico. Proprio per niente. Per colpa sua, la mia figlia maggiore adesso vive in una baracca fuori città con un bambino e in giro si parlava molto di quello che succedeva in casa Bennett. Inoltre sono sicuro che non saranno in molti a piangere la sua morte, se mai dovessimo trovare il cadavere. Ma ho l'impressione, signorina, che lei passerebbe qualche brutto guaio se lo trovassimo, perché ormai tutti sanno che lo ha minacciato 2 volte e glielo dico tranquillamente, messo nero su bianco tutto questo non farebbe una buona impressione. Stiamo parlando di omicidio, signorina, cioè di una grave violazione della legge, e nessuno può passarla liscia per questo.» Assunse un'espressione indifferente. «Naturalmente, se fossi io nei suoi panni, mi darei da fare perché quel cadavere non salti mai fuori.» «Sì, mi darei proprio da fare, perché se venisse ritrovato qualche oggetto appartenente a Bennett, allora sarebbero guai. Non vorrei mai che qualcuno possa provare che Frank Bennett è stato qui, lei mi capisce. E così farei sparire tutto, ma proprio tutto.» Guardò Iggy per accertarsi che lo stesse ascoltando. Lei era tutta orecchi. Proprio così, signorina. Sarebbe un vero peccato perché dovrei venire ad arrestarla insieme con il suo negro. Mi seccherebbe, glielo assicuro, ma dovrei farlo perché io rappresento la legge e ho giurato di difenderla. Non si può prendere in giro la legge, questo lo capisce, vero? Sì, signore, rispose Iggy. Chiarito questo, l'agente Smoot prese di tasca un quarto di dollaro e lo gettò sul tavolo. Quindi mise il berretto e prima di andarsene disse: Naturalmente Grady potrebbe avere ragione. Può darsi che Bennett torni a casa uno di questi giorni, ma io non resterò con il fiato sospeso. Gazzetta di Valdosta, 7 gennaio 1931. L'uomo scomparso, si teme un delitto. Le ricerche di Frank Bennett, 38 anni, da sempre residente a Valdosta e scomparso da casa la mattina del 13 di dicembre, sono ufficialmente concluse. L'ispettore Curtis Moot e l'agente Wendell Riggins si sono spinti fino nel Tennessee e nell'Alabama, interrogando chiunque potesse sapere qualcosa su Bennett. Ma né lo scomparso né il camion a bordo del quale viaggiava sono stati ritrovati. Non abbiamo lasciato intentata alcuna strada, ha dichiarato Smoot quest'oggi in un'intervista. Sembra che Bennett sia sparito dalla faccia della terra. Il giornale della signora Wims, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama, 19 marzo 1931. Una triste notizia per tutti noi. Dopo aver perduto un anno fa il papà, Leona, Mildred, Patsy Ruth e Edward Threadgood sono tornati in città per il funerale della madre. Dopo la funzione, ci siamo recati tutti a casa Threadgood e ciascuno di noi ha dato l'ultimo saluto alla povera defunta. Metà degli abitanti di questa città sono cresciuti a casa Threadgood sotto l'occhio vigile di lei e di suo marito. Non dimenticherò mai i bei momenti trascorsi con loro e come ci facessero sentire tutti quanti sempre benvenuti. Ho conosciuto la mia dolce metà proprio in quella casa durante una delle loro grandiose feste per il 4 luglio. Siamo stati fidanzati contemporaneamente a Cleo e Ninni e non so quante ore abbiamo passato seduti a chiacchierare sotto il portico dopo la messa. Tutti quanti sentiremo la sua mancanza e Whistle Stop non sarà più la stessa senza di lei. Dot Wims.